In discesa costante, in ascesa allarmante, l'odio regna e tu stai dentro il suo quadrante. Basta un istante, cambiamento rilevante, e ciò che resta tiene testa all'attestante. Che tu non ci puoi e non hai voce in capitolo, non è un così dicono, leggi il mio fascicolo pieno di verità che vengono tramandate. È una negatività mista ad azioni inappropriate, derivate da una coscienza troppo sporca, messo alla forca dal tuo stesso senso di colpa. Ma che ci vuoi fare del resto, sei nato per questo, non ha senso rispondere a ciò che non ti hanno mai chiesto. Quale resta, siamo qua per un motivo, lasciare un messaggio a un popolo recidivo, senza farsi fermare da un come un se. L'amore è morto e adesso tocca pensieri offuscati, concetti negati, sentieri sbagliati, affetti rinnegati, legami tagliati con coltelli affilati, sguardi affamati di sogni spezzati. Resta in piedi finché puoi farlo, resta vero, pronto a dimostrarlo. Resta un pensiero e non puoi fermarlo, credi in ciò che sei e nel rappresentarlo. Resta in piedi finché puoi farlo, resta vero, pronto a dimostrarlo. Resta un pensiero e non puoi fermarlo, credi in ciò che sei e nel rappresentarlo. Sono un ragazzino, nato sognatore, non credo nello stato, lo fuoco al tricolore. Questa vita mi ha insegnato a essere pessimista, per questo sono pronto per un'altra rissa. Il sistema ci impone quello che vuole, spinti verso trappole come blatte al sole. Il pensiero resta vero, quello non muore, è come la vita nei conti giorni e le ore. Ma senza un futuro sono solo paranoie, se non hai ideali la tua vita è un disonore. Viviamo per credere nel destino, nell'amore, ma l'odio ci spinge a fare cose che non si vuole. Il rispetto lo si guadagna, non lo si impone. Chiusi come uccelli in gabbia, cantiamo con il cuore. La nostra forza è quella della disperazione, continuiamo a lottare per il giusto valore. Quello che succede se la verità è un'utopia, i fatti ideali si perdono per la via. La strada ci riserva un viaggio alquanto arduo, se credi a ciò che pensi allora devi farlo. Resta in piedi finché puoi farlo, resta vero, pronto a dimostrarlo. Resta un pensiero e non puoi fermarlo, credi in ciò che sei e nel rappresentarlo. Resta in piedi finché puoi farlo, resta vero, pronto a dimostrarlo. Resta un pensiero e non puoi fermarlo.